Sono Prefer Cake, quindi ovviamente festival di cinema, ma oltre alle proiezioni ci saranno anche altri eventi. Uno di questi l'hai organizzato tu, riguarderà appunto la critica televisiva, quindi se puoi spiegarci un po' meglio di cosa si tratterà e chi coinvolgerà. Allora, il panel nasce dalla voglia di ampliare un pochino l'ambito del festival da parte dell'organizzazione, anche al mondo della televisione, perché comunque la serialità è liminare rispetto al mondo del cinema, per cui era un'estensione abbastanza logica. Ma soprattutto nasce dall'idea che si basa su un concetto di intersezionalità, di creare una cosa che in Italia non è mai stata fatta prima, quindi di lavorare insieme e portare quattro voci critiche, oltre alla mia, femminili, e che siano rappresentative di orientamenti sessuali diversi e che siano rappresentative di approcci da un punto di vista critico diversi, perché interverrà oltre a me, che mi occupo di critica televisiva e cinematografica, co-conduco un programma che si chiama Serial Case, ora di Città del Capo, e scrivo su Serieangolo, su Point Blank e su varie altre testate online. Ci sarà Alice Cucchetti, che fa parte della redazione di Film TV, ci sarà Antonia Caruso, che fa parte con me della redazione di Point Blank, ci sarà Irene De Toni, che fa parte sempre con me della redazione di Serieangolo, e ci sarà Lisa Manici, che fa parte della redazione La Falla. Ognuna di noi porterà un punto di vista diverso, ma quello che unificherà tutto il discorso sarà la voglia di offrire un punto di vista differente rispetto al punto di vista universale della critica televisiva, che oggi come oggi, stando ai numeri che vengono dall'America, e probabilmente in Italia le cose sono ancora più spostate, più sbilanciate, parliamo di un 70% di voci critiche maschili, per la maggioranza eterosessuali. Questo vuol dire che, venendo da una tradizione comunque di critica televisiva e cinematografica, che fonda tutte le sue teorie, che fonda tutto il suo sguardo su libri scritti da uomini e teorie fatte dagli uomini, in questo momento storico in cui la televisione propone invece moltissimi prodotti scritti da donne, recitati da donne, prodotti da donne, e che hanno una grande consapevolezza del proprio sguardo, è il momento anche per la critica televisiva di provare ad analizzare queste cose con uno sguardo diverso, perché è importante provare a ridefinire il concetto di qualità in un modo che vada oltre lo sguardo maschile dominante, che è quello che ha dominato da sempre la critica finora.